Aloha, passerottine e passerottine care, se siete qui questa mattina all'Early Bird Special vuol dire che avete tenuto duro e siete arrivati finalmente al venerdì. Thank God it's Friday! Ai microfoni, questa mattina, come tutte le mattine, il vecchio Chuck Bird. Grande musica anche in questa puntata, ve lo anticipo. Realmente questa volta abbiamo ottenuto il massimo. Guarda cose, quante cose meravigliose, ho anche un bel po' di aneddoti da raccontarvi. Rimanete con noi perché noi siamo il meglio che potete trovare sulla piazza. James Taylor, Your Smiling Face. smile myself because I love you. Yes, I do. And when you give me that pretty little pout, it turns me inside out. There's something about you, baby, I don't know. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer it will grow stronger every day. Long before I met you, now I'm sure that I won't forget you. And I thank my lucky stars that you are who you are, and not just another lovely lady sent down to break my heart. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer it can grow stronger every day. Whenever I see you smile at me, no one can tell me that I'm doing wrong today. Whenever I see your smiling face my way, no one can tell me that I'm doing wrong today. No one can tell me that I'm. E vedo le vostre facce sorridenti nonostante l'ora. Your Smiling Face, James Taylor. Oh, c'è una bellissima storia che riguarda Phil Lynott, bassista e leader dei Thin Lizzy. Dovete sapere che il padre di Phil se ne andò di casa quando lui aveva solo 2 mesi, lasciando la madre Phyllis da sola a crescere il bambino. Durante una BBC session a Londra, entra nello studio un tipo di colore, vestito con un completo bianco. Gli mancava solo un cappello a tesa larga per essere una sorta di Superfly, non so se capite il genere. Il personale venne invitato ad uscire dallo studio e Phil rimase con quell'elegantone per 45 minuti. Dopodiché l'uomo uscì e il personale rientrò e Phil Lynott suonò come non mai, in maniera che i tecnici definirono corrosiva. Beh, quell'uomo era suo padre. Era la prima volta che Phil lo rivedeva da quando aveva abbandonato sua madre. E da allora non lo rivide mai più. Che cosa si dissero in quei 3/4 d'ora? Nessuno lo sa. Beh, Phil se ne andò nel freddo gennaio 1986, col fisico fatto a pezzi da una vita di eccessi di ogni genere. Fortunatamente con noi rimarrà per sempre la sua musica. Questa è Dancing in the Moonlight. Should have took that last bus home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance. But I'm dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight. It's alright. Dancing in the moonlight. On this long, hot summer night. It's 3 o'clock in the morning, and I'm on the streets again. I disobeyed another warning. I should have been in my tent. Now I won't get out till Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but but it's a habit worth forming if it means to justify the end. Dancing in the moonlight, it's caught me in its spotlight. It's alright. Dancing in the moonlight on this long hot summer night. And I'm walking home, the last bus is long gone, but I'm dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight, ma nulla ci vieta di ballare anche alla luce del giorno che lentamente sta rischiarando le nostre città. Thin Lizzy, grandi protagonisti di Rock FM e naturalmente piacevolissimi ospiti all'Early Bird Special. Dall'America invece arrivano questi parrucconi, piacciono ancora molto, nonostante siano passati parecchi anni dai tempi in cui loro erano in cima alle classifiche. Cinderella, Don't Know What You Got. You felt so long ago. I let it. Rock FM. Solido, rock solido è quello che vi serviamo tutte le mattine insieme al caffè e insieme alle chiacchiere del vostro Chucky Boy. Solid Rock, e questi erano i Dire Straits. Per strada molta gente mi ferma, ormai mi riconosce, e dice: "Hey Chuck Bird, voglio raccontarti una bella storia su cosa ho visto durante un concerto, che ne so, dei Quiet Riot nel 1988. Me la faccio raccontare e poi dico: "Ehi amico, perché non me la scrivi alla mia casella di posta elettronica bird@radiorockfm.com? Sarò felicissimo di raccontarla ai passerottini e alle passerottine che ascoltano l'Early Bird Special. Abbiamo parlato di Quiet Riot. Hey, questo è un grande brano degli Slade, loro interpretano alla stragrande. Come on, feel the noise. Come on, feel the noise. Ragazzi, questa roba al mattino è meglio del caffè nero bollente. No, no, no, no, Siri, non tornare indietro. Portami pure qui quella bellissima tazza fumante. Ecco, appoggiamela lì, tranquilla, grazie, Siri. Je t'aime. Grazie a Dio è venerdì, ve lo ripeteremo tutto il giorno qui da Rock FM, perché qui a Rock FM ci sono solamente dei rocker che il fine settimana fanno il rock and roll. Se siete dei rocker, siete capitati nel posto giusto, al momento giusto, sulla frequenza giusta. Anche a quest'ora del mattino, perché l'Early Bird Special è la colazione più rock and roll del momento. Lloyd Williams, hey, you know you make me wanna shout. Do you wanna dance? Yeah! You know you make me wanna shout, kick my heels up and shout. Say that you love me. Say that you need me. Say that you want me. Say. still remember when you used to be 9 years old. Soften now, a little bit soften now, yeah, Animal House. Parliamo spesso di John Belushi, qui all'Early Bird Special, ma d'altra parte penso che potremmo considerarlo come il nostro santo protettore. Lyle Williams, You Make Me Wanna Shout, e a quelli che credono che come freghiamo noi turisti in Italia non li frega nessuno, darò una secca smentita. Al negozio di articoli da regalo del Monte Rushmore, nel South Dakota, dove c'è la famosa montagna con scolpiti i volti dei presidenti degli Stati Uniti, vendono per $7.99, tenetevi, una palla da baseball con gli autografi dei presidenti Washington, Jefferson, Lincoln e Roosevelt. Peccato che i primi due non avessero mai neppure sentito parlare del baseball. E delle palle da baseball e tantomeno contemplavano la possibilità di firmarle. Ma come dice Randy Newman, it's money that matters, a contare sono solo i soldi. Lurking in bookstores, working for the public rail. Randy Newman, l'Early Bird Special. O siamo abituati a pensare alle rock and roll star spesso come a degli dei scesi sulla terra per insegnare a noi comuni mortali le sacre leggi del rock. Invece anche le star hanno un passato umile e spesso la loro carriera di musicista è partita proprio dall'incontro con una rock and roll star. Steven Tyler degli Aerosmith nel 1968 suonava in una band chiamata The Chain. Il gruppo venne assoldato per alcune serate in un club di New York chiamato The Scene. E una sera avvenne il miracolo, la discesa in terra di Dio in persona. Perlomeno l'equivalente rock and roll della più alta divinità, Mick Jagger. Sì, proprio lui entra in quel cazzo di club dove Steven Tyler sta suonando. La sera dopo gli Stones hanno un concerto a New York e lui e una sua amica lo vanno ad aspettare fuori dal suo hotel. Quando Mick Jagger uscì dall'ingresso principale dell'hotel, le ragazze uscirono letteralmente di testa. Steven Tyler si guardò intorno e in quel preciso momento prese la decisione della sua vita. Anch'io un giorno sarò così. E in effetti non è che ci è andato poi proprio lontano. Voi che ne dite? A questo punto gli Aerosmith ci stanno alla perfezione. Sono con noi, sono con voi. Questa è Crazy. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been getting line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good, yeah. That kind of loving turns a man to a slave. That kind of loving sends a man right to his grave. Tough and try to tell me that it's time to go. Ma ci pensate, siete in un club con la vostra band ed entra Mick Jagger. Questo è l'Early Bird Special, la colazione più rock and roll del pianeta. Se siete qui, siete dei veri rocker. Dalle 6 alle 7 ve la serviamo calda e fragrante qui da Rock FM. Io sono Chuck Bird, loro sono gli Eagles. Heartache Tonight. D'altra parte è venerdì. Bird Special, non mi stancherò mai di ripeterlo, questa è la migliore colazione che vi possiamo servire qui da Rock FM. Buongiorno Chuck. Buongiorno Ariele. Naturalmente vengo subito smentito perché pane, burro e rock and roll realmente spacca. Senti, ovviamente ti sei tenuto libero per domenica, eh? Ma io avrò La patentina di vero rocker. Caro Chuck Bird, per te e solo per te ne è già stata preparata una. Grazie mille, sapevo di poter contare sul tuo buon cuore. Ragazzi, rimanete lì, sintonizzati su Rock FM, perché in questo momento sta per entrare pane, burro e rock and roll. Da Chuck Bird è tutto. Aloha.